Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sono giornate queste in cui parlare di calcio, ma proprio di pallone, provando per esempio a indovinare come può andare, come si può sviluppare, che esito può avere quella che in Catalogna, con uno sforzo di fantasia davvero molto relativo, hanno ribattezzato partita del secolo. Nella quasi certezza che per quanto tu in una vigilia ti sforzi di individuare tutte le possibili combinazioni, le chiavi di volta e di lettura, difficilmente indovinerai, perché il campo, e questa è la superiorità del calcio su qualsiasi altro gioco esistente, in campo succederà sempre qualcosa di diverso che non hai previsto. Nonostante l'interlocutore sia una persona del calibro e dello spessore tecnico di Adalberto Bortolotti. Ciao Adalberto. Ciao Gigi, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. È così, vero? Cioè, noi ci possiamo provare finché ci pare. Sì, possiamo solo fare delle magre colossali. Ecco, facciamo delle magre, dai, che per una volta può essere divertente. Ma io direi che anzitutto, a quanto è lecito prevedere, è una partita senza pretattica, cioè le due formazioni sono date per scontate. Credo che al limite potrebbe esserci una variante, insomma, un'alternativa, ma mi pare che tutti e due gli allenatori abbiano badato a non nascondere le carte. Si tratta di vedere se sono quelle giuste. Ecco, partiamo. Questo è il vero discorso. Allora, partiamo da lì, partiamo dalle formazioni. Io ti propongo un paio di dubbi che ho io, uno normale e uno paradossale, che riguarda il Barcellona, e poi invece uno che riguarda l'Inter. Quello normale che riguarda il Barcellona è che delle formazioni che ho letto anche sui giornali spagnoli, a larga maggioranza non gioca Yaya Touré ma gioca Keita, e questo è un mio primo dubbio, perché penso che Keita, o in difesa al posto di Milito, o più probabilmente in mezzo al campo al posto di Keita, io penso che dovrebbe finire per giocare. Touré, tu dici, sì. Ma in effetti la scelta di Milito anzitutto significa che Marquez è andato molto indietro nelle gerarchie dei centrali difensivi, e poi che però, sempre che sia confermata, Guardiola preferisce uno specialista a un giocatore polivalente come Touré, che comunque nel ruolo ha già fatto benissimo. Certo. Ecco. Keita forse dà un apporto dinamico. Sì, sono quei gregari del Barcellona, sì, che poi finiscono per essere determinanti, perché sì, certo, devono, certo, consentire ai solisti di esibirsi al meglio. Ecco. Perfetto. L'altra, un po' più paradossale, è che no, non succederà, ma io, se all'ultimo momento vedessi sbucare Bojan e non Ibrahimovic, non cadrei dal sesto piano, insomma, perché l'esame della partita d'andata, l'esame di tutte queste partite di quest'anno del Barça, che io, ripeto, vedo ogni sabato sera, che mi porta a dire che, al di là del suo bottino personale, Ibrahimovic in una partita da assalto non è un assaltatore, e spesso e volentieri, se non è in gran forma come adesso, è un tappo per Messi. Io ti dico la verità, se fossi in Guardiola, il vero rovello della vigilia sarebbe appunto legato a Ibrahimovic, perché è vero che in pratica gli ha non vinto, perché non fu una partita vinta, ma comunque gli ha determinato la partita di Londra con l'Arsenal, ecco, sì, con quei due gol. Però dà tuttora l'impressione di essere un corpo estraneo, un mobile corpo estraneo al gioco di una squadra che è abituata a trovarsi a memoria con questi fraseggi ripetuti, soffocanti, e che in questo prescinde dal lato atletico dell'attaccante, cioè dalla sua statura, dai centimetri. In effetti a Milano Ibrahimovic è stato, non era nella migliore condizione, stava riprendendo, è stato assolutamente una palla al piede, cioè, finché è stato in campo. Mi sembrava completamente fuori dal gioco, e un grosso regalo ai centrali dell'Inter, che sono a loro volta grandi e grossi, quindi non temono e centimetri, ma temono piuttosto uno scatto, un'intuizione, un lampo di genialità, ecco. Questo sarebbe secondo me veramente un dubbio, perché un attacco con i tre ragazzini sarebbe sarebbe affascinante per uno neutrale. No, per uno neutrale e per uno che conosce il gioco del Barcellona e sa che la velocità di scorrimento del pallone è determinante, cosa che con Ibrahimovic funziona meno. Dubbi di formazione sull'Inter, pare che non ce ne siano, pare che giochi la stessa squadra all'andata, perlomeno nel modulo in avanti. Io ho qualche dubbietto che rischi insieme Pandev e Sneijder continuo ad averlo, perché allora Pandev è certamente reduce da un infortunio, Sneijder non si sa, perché potrebbe essere stata tutta una manfrina. Sicuramente è stata una manfrina parlare di stiramento, perché questo, su questo non c'è dubbio. Anche perché l'allenamento cui ha fatto riferimento ieri Mourinho risale praticamente a 2 giorni dopo l'infortunio, certo, e quindi 2-3 al massimo, e nessuno stiramento guarisce in 3 giorni. No, neanche, cioè, astento in 3 settimane se si parla di stiramento. Infatti, quando io ho letto stiramento, ho detto: boh, se l'Inter va in finale, speriamo che lo recuperi. Sì, nel senso che questi erano un po' i tempi. Comunque, quindi io ho qualche dubbietto, insomma, no? Ancora che giochi. Cioè, secondo me, se gioca Pandev, non parte Sneijder. Se invece gioca Sneijder, può darsi che non ci sia Pandev, ci sia un modulo ridisegnato. E invece, se davvero Sneijder non ha avuto nulla, allora tutto questo ovviamente cade. Nei vari giochetti che si fa, io ho provato a immaginarmi, così come un gioco personale, come l'avrebbe giocata un nostro comune amico, forse addirittura più tuo che mio, e che da tempo non c'è più, cioè Nereo Rocco. Allora, è chiaro che non si può fare un confronto testuale, perché Rocco giocava uomo, no? Certo. Quindi pensiamo a un Rocco moderno che arriva adesso e che si adegua al calcio di adesso. Io credo che avrebbe fatto una formazione diversa e ti dico un modulo diverso. Cioè, io penso che l'Inter debba temere non tanto gli attacchi frontali quanto gli sfondamenti sulle fasce, soprattutto in un campo largo come quello di Barcellona, dove si gioca così. E io penso che il vecchio Paron avrebbe rinforzato le fasce, cioè giocando con Maicon esterno ma alto, sì, e Cordoba alle spalle sulla, sì, destra, e Chivu Zanetti in alternativa sulla sinistra. Sulla sinistra. Poi se Sneijder sta bene, cambiasse Sneijder e davanti Milito chiaramente. Sì, questa è indubbiamente un 4-4-2, ecco, dove gli esterni alti sarebbero alti, ma in grado anche di fare quelli bassi, sarebbero stati, certo, Maicon e Zanetti. Senti, pensavo a questa formazione, mi sfagiolerebbe anche, mi incuriosirebbe. Fermo restando però che Mourinho, con tutto quello che si può pensare nel bene o nel male di lui, ha trovato la quadratura europea dell'Inter con questa formazione prettamente offensiva, quindi è perfettamente logico che vada dritto. Che vada avanti con quella. Sì. Io, visto che hai citato il giurassico, provo a modernizzare, tu faresti densità, no? Densità sugli esterni, anziché fare più densità in mezzo al campo. Ripartirei da un altro presupposto, caro Adalberto Bortolotti, che è questo. Io credo che per l'Inter giocare per difendere il 3-1 sia troppo pericoloso, perché di risorse offensive il Barcellona ne ha tante. Se subisce un gol, il successivo ti può buttare fuori. Quindi io credo che, anche sulla base di come è stata l'andata, io credo che l'Inter cercherà fin dall'inizio di giocare la sua partita, perché è chiaro che un gol smorzerebbe immediatamente anche l'atmosfera del Camp Nou, gol sullo 0-0, gol sullo 0-1, insomma, credo che sia un abito mentale imprescindibile per l'Inter che va in campo stasera. Ma questo è ovvio, anche perché è regola elementare di strategia che l'avversario vada affrontato dove è meno forte, e sicuramente, anche se ha buoni difensori, il Barcellona è assai meno forte in fase difensiva che in fase d'attacco. A volte le cifre tendono anche a fuorviarti, perché il Barcellona in genere subisce pochi gol, ma non lo fa tanto perché difende bene quanto perché attacca, non difende quasi mai, certo, nel senso che la palla la tiene quasi la però, e la porta nel campo avversario. È vero. Quando la palla è nella sua metà campo, i rischi ci sono, la partita d'andata l'ha fatta vedere, e rispetto alla partita d'andata manca un giocatore sicuramente importante come Pujol. Verissimo. Poi che Milito sia bravo non ci sono dubbi, anche il buon sangue non mente, ma comunque l'Inter ha chance di fare gol, ecco, e non credo ne prenda tantissimi. No, ecco, questo... quindi sono d'accordo con te che se fa gol, soprattutto se fa gol prima degli altri, smorza tutto. Pensavo lo stesso quando il Barcellona ha segnato per primo a Milano, ma questo è per certo, ricondursi alla tua premessa. Tutti che, i discorsi che tanto, apparentemente più logici, il campo si diverte a rovesciare. Certo, che tanto non si indovina. Beh, un'altra cosa che si può provare a indovinare è questa. Io qui ho un po' meno dubbi. Cioè, a differenza dell'andata, stasera gioca Messi, io credo. Non vuol dire, cioè è una battuta fino a un certo punto. No. Non vuol dire che Messi sia un giocatore solo casalingo, perché sarebbe mancargli di rispetto. È un grande campione sin da ora. Però Messi al Camp Nou si trasforma e credo che a Milano lo circoscrissero, credo si dica, benissimo. Stasera faranno certamente lo stesso e ci metteranno la stessa applicazione, ma Messi stasera farà di più, io credo. Sicuramente farà di più. A Milano, nella partita giudicata deludente rispetto ai parametri altissimi del giocatore, qualcosina secondo me poi ha fatto, perché per esempio si dice non ha mai tirato in porta. Io ricordo due parate, una abbastanza impegnativa di Giulio Cesar su Messi, ed era appunto circondato da una gabbia estremamente funzionale. È chiaro che anche senza voler fare dietrologie fuori luogo, anche il metro arbitrale è un po' condizionato dal fattore campo, anche dell'arbitro più refrattario a questo, perché tre falli di seguito su Messi magari a San Siro passano, però Barcellona no, ecco, certo. Sotto gli ululati, ecco, quindi anche questo influirà. Proprio per questo io, indipendentemente dalle fantasticherie di prima dei moduli con la staffetta di esterni, penso che Pandev, cioè io non lo metterei onestamente, ecco, preferirei, considerando che si dovrà fare molto lavoro anche di ingabbiamento, credo che se gioca Snyder Pandev sia un lusso, ecco, a questo punto. È esattamente la riflessione che ho proposto all'inizio. Andiamo avanti. L'Inter, tolto il Chelsea, ha spesso degli avvii abbastanza lenti, tolto il Chelsea in casa, sì. Ha spesso degli avvii abbastanza lenti, ma vale in Coppa come in campionato. Cioè ci sono delle partite che poi, ma il prototipo è la partita d'andata, no? Non dico balbettante come col Manchester un anno fa, ma certamente molto molto incerto, tant'è vero che da un Barcellona che, come si vide poi, non era affatto trascendentale quella sera, fu colpito e in quel momento si pensò affondato. È che io credo che al Camp Nou una partenza lenta di quel genere sarebbe costerebbe di più. Sì, devo dire che questo è tanto scontato che il Barcellona partirà alla baionetta, che credo che l'Inter sia preparata a questo. Cioè, voglio dire, sì, sarebbe sì, imperdonabile che concedesse 10 minuti accademici, che ormai concede a tutti, anche all'Atalanta, è vero. Al termine dei quali poteva trovarsi 0-2 e sarebbe stato poi anche più complicato risalire, perché questa è una partita in cui io credo che entri già in campo carico di adrenalina, insomma, non hai bisogno di riscaldamento, ecco. E quindi la squadra sarà sicuramente preparata a questo. Alberto, io credo che noi abbiamo provato a esibirci, poi ovviamente andrà in tutt'altra parte. Il Bayern è andato in finale con un 4-0 complessivo al Lione, ed è una squadra che era fuori contro la Fiorentina, esatto, era fuori con Manchester United. Se andiamo ancora più indietro con la stessa Juventus, dopo il pareggio interno e il gol subito nel ritorno, a regola di Basica era già fuori lì, e quindi infatti mi hai anticipato la domanda successiva che era, sì, riguardava proprio il Bayern. Il Bayern è ovvio che a questo punto fa paura e che ha il suo bel 50% in finale chiunque arrivi. Loro hanno dichiarato di preferire l'Inter, non avranno Ribéry perché sono appena arrivate 3 giornate di squalifica, ma mi pare che abbiano dimostrato ieri sera che possono anche fare a meno di Ribéry, pur se è una perdita abbastanza grave. Secondo te chi delle due di stasera sarebbe più congeniale, no, al Bayern, anzi viceversa? Come si mette una finale tra chi vince stasera e il Bayern in prospettiva? Ma il Bayern adesso fa paura a tutti, l'hai detto tu, perché è una squadra di grande fisicità, in crescita e tutt'altro che privo di qualità, perché Robben è un grande giocatore, io più lo vedo e più mi incanta, e questo Olic che viene snobbato un po' anche dai commentatori televisivi, poi fa gol a grappoli, ecco. Tant'è vero che ci si permette di tenere in bacheca il giocatore più costoso della campagna acquisti, Gomez, e si danno, esatto, 10 minuti a Klose, dopo, certo, aver liquidato Toni, voglio, certo, dire, c'è stata un'epurazione a livello di attaccanti, eppure questi fanno gol. Ciò detto, io credo che Van Gaal è giusto, perché poi ha una tradizione così favorevole con gli italiani che si augura un avversario italiano, ma io il Bayern, se fossi in Van Gaal, invece preferirei il Barcellona, per la teoria degli opposti, ecco. L'Inter è una squadra che al Bayern può regalare pochissimo, perché è fisica altrettanto, potente, esatto, atleticamente, ed è più veloce, Robben è più veloce, è più agile, anche se è molto cresciuto, notavo in queste ultime partite, è molto cresciuto Schweinsteiger, sia sul piano dinamico che sul piano della personalità. Adesso è un vero grande giocatore a tutto campo. Ma sai, parlando sempre delle follie o delle controdimostrazioni del calcio, Van Gaal è stato a un passo dall'esonero, perché ha avuto un inizio di stagione fallimentare. Cioè, credo che il Bayern, a memoria d'uomo, non fosse mai rimasto così attardato in classifica, sì, avendo, sì, la squadra più forte del campionato, e neppure le prime esibizioni internazionali furono esaltanti. Poi, cammino facendo, ha ritrovato, se non la leadership assoluta, comunque è competitivo per il titolo nazionale, e ha fatto questa progressione in Coppa. Adesso è pericoloso, è la vecchia teoria che vale a livello di mondiali, eccetera. I tedeschi è meglio eliminarli finché sono, sì, all'inizio, sì, ecco, sì, sì, finché sono piccoli, diciamo, certo, perché, certo, poi crescendo, non è tanto che crescono loro, è che loro mantengono lo stesso passo quando gli altri in finale di stagione sono portati poi magari ad abbassare i ritmi, ecco. Adesso è una squadra sicuramente pericolosa. Ineccepibile. A presto ad Alberto. A presto, ciao Dan. Grazie. Dunque, il Bayern è una squadra che non si batte da sola, devi batterla tu. Ci sono molti messaggi di ascoltatori. Io sentirei prima nell'intervallo, sentirei le due frammenti di vigilia dei due allenatori, cominciando da Mourinho. Mi sorprende un pochino tutta questa storia, perché qual è il problema per il migliore equipo del mondo cambiare un risultato di 3-1? Qual è il problema? Qual è il dramma? Non c'è problema, non c'è dramma, non bisogna fare la guerra, non bisogna fare tutto questo. È un'ossessione, è antimadridismo, non è un sogno, per noi è un sogno, per loro è un'ossessione, per loro, per voi, perché voi avete lavorato benissimo durante la settimana. È un'ossessione, non bisogna nascondere, perché non è un problema. Io posso immaginare finale di Champions League a Torino, è un'ossessione per l'Inter. È che non sto criticando, sto semplicemente a dire quello che è vero, e è anche vero perché l'ho vissuto con una Coppa del Re. Immaginati con il significato di una Champions. Non è una critica, non interpretare di un modo negativo le mie parole. Per noi è un sogno, per voi è un'ossessione. Splendido concetto, oggettivamente splendido, e anche molto ben espresso, a differenza della quasi totalità delle altre occasioni. Non la risposta, per carità, giusto la voce, una voce di Guardiola che parla di quel proclama eccessivo di Piqué. Piqué l'ha detto in buon senso, quello che ha detto, che dobbiamo essere noi, anche la gente, a fare sentire a loro che vogliamo vincere come loro vogliono vincere, ma c'è poco giocatore più rispettoso con opponenti come Gerard. Beh, non mi sembra un tono di un ossessionato, quello di Guardiola, perlomeno non in questo frammento che abbiamo ascoltato. Non crede sia esagerata la squalifica a Ribéry, scrive Giacomo. Non ho visto cattiveria nel fallo e non ho visto nemmeno proteste o reazioni esasperate dopo il cartellino rosso. Secondo me è nettamente esagerata, perché Ribéry ha fatto un brutto fallo di gioco, certamente è entrato in ritardo, ha lasciato il piede, come si dice in gergo, sull'avversario. Rosetti è stato abbastanza severo a espellerlo, ma secondo me è stata una sanzione giusta, però era metà primo tempo. Ribéry in pratica aveva già avuto una squalifica di due giornate, nel senso che ha saltato quel pezzo di partita e ha saltato il ritorno a Lione. Secondo me era più che sufficiente, e il problema in questi casi è sempre l'uniformità arbitrale. Tre giorni dopo quella partita, in Inter-Atalanta, a fine primo tempo, Eto'o ha fatto un'entrata altrettanto grave su un avversario. Io, avendo ancora negli occhi la severità di Rosetti, ho pensato per un attimo che lo espellesse, e invece l'ottimo, anzi Insigne Orsato di Padova, credo, l'ha lasciato addirittura correre il rischio, ha lasciato addirittura correre l'azione, e non ha nemmeno fischiato il fallo. Il dubbio era tra giallo e rosso, lui non ha nemmeno fischiato il fallo e l'Inter ha avuto la palla gol. Questo per dire qual è l'uniformità arbitrale non europea, in questo caso italiana, perché l'arbitro che ha cacciato Ribéry era Rosetti, e quindi evidentemente qualcosa che continua a non funzionare da questo punto di vista di un parametro uniforme indubbiamente c'è. Da Modena ha chiamato Michele, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Senta, io volevo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda le squadre che arriveranno in finale. Una è il Bayern, si trova lì, magari ci poteva stare benissimo la Fiorentina, visto per come sono andate le cose, tramite errori arbitrali e fortuna anche che si infortunò Rooney. E l'altro mio pensiero è per l'Inter. Non ci dimentichiamo che si trova in finale perché è stato negato un rigore a Milano al Chelsea. È un rigore, è un gol in fuorigioco di Milito a Milano. Grazie, volevo sapere voi come la pensavate. Se si facesse la Champions League alla Moviola, potrebbe essere un esito, indubbiamente. Invece la Champions League si fa sul campo, alla fine i verdetti una loro logica ce l'hanno. Certo non lo ebbe il verdetto finale di Bayern-Fiorentina, di tutte le partite citate, certamente quella che ha avuto un esito più ingiusto. Sulle altre quegli episodi rimangono, indubbiamente, hanno agevolato il cammino dell'Inter, e questo credo che qualsiasi interista sia disposto a riconoscerlo, qualsiasi interista di buon senso o di buon senno, cambiando una consonante sola, sia disposto a riconoscerlo, ma questo non significa però che l'Inter nel doppio confronto col Chelsea non abbia meritato la qualificazione, perché l'ha meritata, e questo non significa che i due gol di scarto che alla fine della partita ci sono stati tra Inter e Barcellona non abbiano fotografato la situazione che si era vista sul campo, perché l'hanno fotografata, si poteva ballare tra uno e due, ma certamente due non sono, due ci potevano stare, e dunque vede che forse è ancora tutto sommato più attendibile il calcio del campo che non il calcio della Moviola. Tiziano ha chiamato da Pordenone, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Faccio una premessa prima, poi le faccio una domanda. La premessa è che già un po' che la voglio chiamare, la voglio sentire su questo argomento. Io ieri sera ho visto le interviste di Van Gaal, di Rummenigge e di Robben, no? Quando parlavano del possibile finale contro l'Inter, contro Mourinho, e onestamente sono tre personaggi di spessore e hanno entrambi sottolineato la professionalità di Mourinho e il suo saper fare. Io sento che lei ha parecchio rancore, parecchio indisponibile verso Mourinho. Certe volte lo ha definito, dal punto di vista personale, anche un cialtrone. Cialtruane, facciamolo suonare bene almeno. Buffon, anche ha scelto. Io direi che secondo me è un po' fuori luogo questo suo termine, e giudicherei professionalmente, come lei dice, mi limiterei a giudicare professionalmente l'allenatore come fanno gli altri, la sua famiglia, la sua moglie, i suoi figli, i suoi amici lo giudicheranno come persona, però da Belceltrone è una persona capace. No, adesso momento. No, non arriviamo alle famiglie, perché sennò evidentemente allarghiamo un po' troppo il cerchio. Io faccio una distinzione, ma guardi che è quello che pensa la stragrande maggioranza delle persone. Sa, tolto il tifoso integrale, o tolto l'estimatore integrale, che ci può essere nel caso di Mourinho, perché che ci siano estimatori totali del di lui dal punto di vista professionale ci sta, e come, anzi credo che sia abbastanza normale. Non si può non distinguere quando un personaggio pubblico prende continuamente posizioni così estreme, quando non rispetta i colleghi, quando non rispetta non so, adesso le istituzioni è un po' pomposo, ma insomma così ci siamo capiti, quando non fa altro che provocare, quando non riconosce mai i meriti altrui, quando se perde c'è sempre qualcosa che ha fatto perdere, mentre se vince e magari c'è qualcosa da discutere non se ne parla nemmeno. Questo è un tipo di messaggio, ha detto molto bene Cruyff ieri, secondo me, che ha fatto proprio questa distinzione. Cruyff ha detto: è indubbiamente un tecnico che può aver portato qualcosa di nuovo o comunque di interessante nel calcio da un punto di vista di campo, fuori dal campo ha portato solo rovine. Ha detto qualcosa di questo genere, ed è una cosa che non vale soltanto in Italia, ha contrassegnato fino ad ora l'intera carriera di Mourinho, peraltro ancora abbastanza breve anagraficamente e quindi suscettibile di sviluppi, poi li staremo a vedere. Agrigento, Gianni, buongiorno. Buongiorno a tutti gli spettatori. Io da interista spero che Schneider non giocherà, perché solo lui può fare la differenza a favore dell'Inter. E poi, visto come è arrivato fino al semifinale l'Inter, volevo sapere se Falchetto non può più telefonare. Che aveva fatto? Collina direttamente le telefonate agli arbitri? Buonasera, grazie. Grazie a lei. Gianni, noi abbiamo un grande bisogno, è un grande piacere proprio, no, di questi interventi. Qualcuno ogni tanto, sì, poi io lo so, adesso torno in ufficio, torno alla mail e trovo una valanga di proteste o comunque di segnalazioni di un mancato filtro rispetto a queste telefonate. Lo ripeto agli ascoltatori bennati, che sono la stragrande maggioranza, come per esempio il precedente, che esercita in maniera civilissima il suo diritto di critica e di dissenso rispetto a certe tesi. Non pensiate che non ci sia un filtro a questo programma e rispetto a queste telefonate dementi. Il problema è che c'è un modo di presentarsi al centralino e poi c'è un modo di spalancare l'impermeabile, secondo una formula che avevo insomma varato qualche anno fa. Franco ha chiamato da Modena, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Allora, sull'incoerenza di Rossetti, in Italia siamo abituati, spero che se ne accorgono anche in Europa, perché secondo me è sopravvalutato, non è un arbitro che merita né una semifinale di Champions né tantomeno una finale europea o mondiale. Comunque a Monaco ha arbitrato bene, però Sì, no, ma quando fai referti è sempre un po', e poi secondo me è un lottore in campo, comunque mi ricordo il vecchio Collina. Non ho mai letto referti di Rossetti, non credo nemmeno lei, e quindi è difficile giudicarlo da questo punto di vista. Una da Ribéry vuol dire che nel referto ha calcato molto la mano, quello volevo ma dire. Oppure può essere che l'UEFA vuol dare gli esempi sul gioco duro, va a saperlo. Mentre volevo fare un passo indietro con Moratti e Mourinho, secondo me stanno esportando. Io sono un tifoso milanista e dico che una squadra che vince 6 partite in Champions, se vince anche stasera, è giusto che vada in finale. Certo. Però ci sono modi e modi di andare in finale. Moratti ha detto che stanno facendo pressione sull'arbitro. Ieri Mourinho, io ho guardato la conferenza stampa su Sky, non ha mai parlato di calcio, ha sempre parlato di ossessione Barcellona quando l'Inter non vince la Coppa dei Campioni da quasi 50 anni, quindi non può essere ossessionata la Barcellona che l'ha vinto lo scorso anno. Dico, se purtroppo non stanno esportando quello che già fanno in Italia quando fa le conferenze stampa, un parere mio così a titolo informativo. No, certo, ma i pareri sono tutti leciti quando sono espressi in forma civile e quando non ci sono, quando non c'è appunto spalancamento improvviso di impermeabile come l'agrigentino di prima. Io invece ho trovato abbastanza, l'ho detto anche all'inizio, dialetticamente centrata la frase di Mourinho, perché è vero che È vero che per il Barcellona è diventata un'ossessione. Il comportamento di questi giorni, che poi non ha avuto nulla di incivile, intendiamoci, però è un comportamento da chi è un po' ossessionato dalla finale, e Mourinho ha anche spiegato perché. Non solo perché sono i detentori e si ritengono, e fin qui giustamente, la miglior squadra del mondo, ma perché l'idea di perdersi una finale al Bernabeu, e quindi la possibilità di andare a levare la Coppa dei Campioni sotto il naso di quelli del Real, è qualcosa, è un'occasione imperdibile. Quindi in quel senso l'ossessione ci sta. L'Inter non mi sembra ossessionata alla stessa maniera, e mi sembra che il concetto di sogno che Mourinho ha espresso si attagli di più al comportamento che l'Inter ha avuto fino a questo momento. Poi sulle simpatie e antipatie nel calcio, come altrove, insomma, non, è evidente che c'è mano libera, insomma, anche se dovrebbe essere libera fino a un certo punto. Beh, questo messaggio è molto bello. Un ascoltatore fa notare che Mourinho ha detto di sentirsi preoccupato per l'atteggiamento dei giocatori che vogliono complicare il lavoro degli arbitri. Lui dice: conosce mica per caso un allenatore che è abituato anche lui a complicare il lavoro degli arbitri? Direi che non è male nemmeno questa. Sentiamo la rubrica storica curata da Nicola Filippone. Che cosa è accaduto nella storia dello sport il giorno 28 di aprile? Sembra ieri. 28 aprile 1923. Alla presenza del sovrano Giorgio V apre i battenti lo stadio londinese di Wembley. La prima partita di quello che all'epoca viene battezzato Empire Stadium è la finale di FA Cup, vinta dal Bolton per 2-0 sul West Ham. Per l'occasione il nuovo impianto si riempie ben oltre la capienza prevista di 125.000 persone e molti spettatori arrivano a bordo campo. Nei suoi 80 anni di vita, Wembley ha ospitato tutte le finali di Coppa d'Inghilterra fino al 2000, tutte le finali di Coppa di Lega dal 67 al 2000, la finale mondiale del 66, quella degli europei del 96, 5 finali di Coppa dei Campioni e 2 di Coppa delle Coppe, oltre a grandi concerti e altri eventi. Nel 2003 è stato demolito per far posto al nuovo stadio omonimo. Interessante. Vi ho detto della squalifica per 3 giornate a Ribéry. C'è un altro retroscena che riguarda la partita di ieri sera, cioè la vittoria del Bayern a Lione. Non ha giocato Timoshuk, l'ucraino, nazionale ucraino del Bayern di Monaco, ufficialmente per un problema di salute, cioè per un forfait improvviso. E invece Uri Hoeneß, il presidente del consiglio di sorveglianza del Bayern, ha raccontato stamattina il perché Timoshuk non ha giocato. Sua moglie è incinta di 6 mesi, ha spiegato Hoeneß, le si sono rotte le acque, cosa che causa rischi per i gemelli che loro due stanno aspettando. E quindi abbiamo lasciato libero Timoshuk di recarsi al capezzale della moglie, e la squadra ha giocato anche per Timoshuk e la sua famiglia, dedicando loro alla vittoria. Beh, insomma, direi che questa sì che è un modo di difendere la privacy prima e di raccontare correttamente le notizie dopo. In questo senso credo che potremmo prendere esempio dai bavaresi, forse. Se non solo in questo senso. Ernesto da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, Garantini. Dica. Io volevo, ho sentito prima dire da lei a proposito della ossessione del Barcellona di vincere questa Coppa dei Campioni. Secondo me è più un'ossessione di perderla nei confronti di una squadra alla quale loro hanno dato 70 milioni di euro e un giocatore fortissimo, che è Tô, in cambio di Ibrahimovic e Maxwell. Cosa ne pensa lei? No, non credo. Penso che in questo momento, poi ossessione, non ossessione, insomma, chiamiamola come vogliamo. Penso che in questo momento no, loro abbiano in testa davvero il fatto di non voler andare fuori, cioè di continuare a dimostrarsi più bravi anche attraverso i risultati, da una parte, e dall'altra la finale di Madrid. Credo che se c'è un aspetto ossessionante sia questo. Poi è ovvio che può benissimo entrarci anche questa componente. È chiaro che se stasera riuscissero a dimostrare, almeno stasera, che attraverso una grande prova di Ibrahimovic, che non si sono autopresi un pacco l'estate scorsa, credo che dispiacere non gli farebbe, immagino almeno. Giacinto ha chiamato da Prato, buongiorno. Giacinto è caduto vuol dire che è la linea che... Allora, un attimo di pazienza, un ascoltatore milanese, perché volevo aggiungere un paio di... Beh, intanto c'è questa notizia drammatica che è uscita ieri e che tuttora ha degli sviluppi non rassicuranti, che riguarda questo cestista, il giocatore della Scavolini di Pesaro, Sacota, che improvvisamente è entrato in coma, insomma, ha avuto uno scontro di gioco al primo minuto di domenica scorsa in Scavolini in Pesaro Teramo, ma da Teramo fanno notare tra l'altro che l'esame delle immagini non dà nemmeno la sensazione precisa di uno scontro, e comunque non di uno scontro che possa provocare una lesione così profonda. Invece è una lesione interna grave, al punto che questo ragazzo di 24 anni è in coma farmacologico, in ventilazione controllata e con, leggo da questa agenzia la più recente uscita, valori epatici, renali e pancreatici al di sopra dei limiti fisiologici. È una lesione duodenale misteriosa di cui non si è davvero trovata la ragione. Vabbè, poi ci sono 2 anni di squalifica per un ciclista italiano che si chiama Bosisio e che era stato persino maglia rosa un giorno al Giro del 2008, 2 anni per Epo, ma insomma questa temo proprio che invece non sia una notizia. Non vedo più ascoltatori sul display, cioè sono caduti, è un momento in cui si cade. Allora sentiamo la vigilia di un ex, perché c'è un altro ex oltre ai più gettonati, Ibrahimovic, Maxwell e Toce, anche Thiago Motta. Penso che una partita così importante del calcio dobbiamo misurare, no, alla hora di parlare, però guardando di altro modo anche normale, dopo il 3-1 di San Siro loro devono fare di tutto per scaldare un po' la partita. Noi siamo tranquilli, abbiamo venuto qua per giocare una bella partita. Certo, tocca a Fabrizio dalla provincia di Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. Certo, benissimo. Garanzini, io l'ascolto tutti i giorni perché purtroppo sono sempre in macchina per lavoro, quindi è un piacere. Una critica rivolta a lei, cioè sì, mi faccia capire, no? Mourinho anche a me all'inizio, diciamo, non è che mi convinceva molto per l'atteggiamento. La sua criticità dopo Chelsea e dopo la partita di Barcellona nei confronti di Mourinho, no? Che lei è sempre stato un po' critico. Qual è? I comportamenti, sempre i comportamenti, non entro nel merito delle sue scelte, anzi mi sembra che cioè, se, è oggettivo, è la squadra a dirlo, ma sono gli stessi giocatori a dirlo, ma insomma, basta avere gli occhi per vedere. Mourinho ha dato a gioco lungo, nella sua seconda stagione all'Inter, ha dato all'Inter una vera personalità europea, su questo con una grande squadra a disposizione, intendiamoci, ma mi sembra che su questo non ci sia niente da obiettare. I comportamenti, le frasi, gli atteggiamenti invece, cioè quello che non attiene strettamente al suo lavoro sul campo, mi sembra che siano in linea con i precedenti, cioè esecrabili. Perché no? E soprattutto per l'atteggiamento, il comportamento. Certo. Però è indubbio che lui oggi stia dimostrando di avere delle qualità, cioè da parte. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? No, ma questo no, non posso che continuare a ripeterlo, però non è difficilissimo da capire, no? Cioè ciascuno di noi può ciascuno di noi di cui si valuta il pubblicamente, cioè un personaggio pubblico è sempre fatto di almeno 2 componenti, e cioè di un aspetto professionale e di un aspetto umano. Il suo modo di essere aggressivo, invasivo, ma aggressivo soprattutto, non deve farci sbagliare nel diminuirne il valore da un punto di vista tecnico, da un punto di vista strettamente professionale, cioè da campo. Però io temo che sia professione, oltre che umanità, anche assumere certi atteggiamenti che lui continua ad assumere e a cui non ha rinunciato nemmeno mercoledì scorso, cioè non aveva ancora finito di vincere una partita in cui l'Inter ha quasi dominato il Barcellona, diciamo pure dominato il Barcellona, a un certo punto è arrivato vicino alla goleada, perché ci stavano il 4 e il 5-1 per come l'Inter aveva disintegrato il Barcellona nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Quindi era reduce, cioè una vittoria stupenda, da una serata trionfale, c'era il pubblico in estasi, aveva avuto 2 sconti, e cioè un gol in fuorigioco, ma soprattutto un rigore avversario che avrebbe riportato il punteggio sul 3-2, clamorosamente negato dall'arbitro, e quindi sono cose che succedono sui campi, ma almeno ti eviti di dire in conferenza stampa, so già che al ritorno dovremo stare attenti all'arbitro. Ma vergognati, solo che lui la vergogna non la conosce. Gianni da Treviso, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo intervenire su 2 interventi fatti prima. Sì. Uno era sulla Moviola, diciamo, no? Prima c'era qualcuno che si lamentava che la Fiorentina poteva essere in finale, e l'Inter invece no, per episodi contestati. Certo. Io credo che sia ora di finirla. Se la moviola non è una regola per il calcio internazionale, una volta finita la partita è ora di finirla, di ripetere sempre che se questo, se l'altro, poteva arrivare o non poteva arrivare. Gianni, mi ero modestamente già permesso anch'io di dire questa stessa cosa, che lo so che è inutile, perché tanto viviamo in questo paese, è inutile che facciamo finta di vivere in un altro, però insomma, effettivamente ogni tanto bisognerebbe provarci a ricordare che non serve e che non è il caso. Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida con Flavio Suardi in redazione. A domani.